giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Tisana ricorda i 60 anni dall'alluvione del 2 settembre 1965 con un corteo previsto stasera, un anniversario che diventa denuncia. Basta rinvii, servono superò subito opere di laminazione per la sicurezza del tagliamento, dice il sindaco. Maltempo in Friuli Venezia Giulia, allerta meteo fino a mezzanotte, piogge intensa e temporale hanno colpito la nostra regione dalla notte, con disagi soprattutto in montagna, pedemontana e passapianura, segnalati allagamenti e alberi caduti. Traffico intenso e 4 km di coda tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert, ancora disagi per la chiusura della superstrada slovena H4, ma al via i lavori di asfaltatura a Fernetti per raddoppiare la corsia. A Malignani di Udine, oggi primo giorno di scuola per gli studenti sprint, quelli cioè che hanno scelto il percorso di studi in 4 anni invece che in 5. 35 famiglie senza gas da 20 giorni, ancora disagi per i condomini dello stabile di via Revoltella a Trieste, dove il 14 agosto un uomo incendiò l'appartamento della compagna. Fornitura di gas sospesa per tutti. Il 6 e 7 settembre l'aeroporto Rivolto ospita l'evento internazionale per i 65 anni delle frecce tricolori tra air show, mostre e solidarietà. L'Udinese chiude il calciomercato con 3 colpi last minute: Zanoli dal Napoli, Gueye dal Metz e Zaniolo dal Galatasaray. Ufficiale anche l'addio di Alexis Sanchez, che rescinde e vola al Siviglia. Sarà il Friuli Venezia Giulia nel 2028 ad ospitare il campionato europeo di calcio delle minoranze linguistiche, un segnale forte di inclusione, identità e dialogo tra le culture. Buongiorno da Anna Vitaliani in studio e Daniele Lettig. In apertura, lo abbiamo detto, sono passati 60 anni dall'alluvione del 2 settembre 1965 che mise in ginocchio la Tisana, un evento drammatico che costò la vita a 11 persone. Si ripresentò anche l'anno seguente, il 4 novembre del 1966, con conseguenze ancora più devastanti. Oggi la comunità locale rievoca quei drammatici giorni con un corteo promosso questa sera dal Comitato Alluvione 60 insieme all'amministrazione comunale. Il sindaco Lanfranco Sette chiede: le due opere di mitigazione del rischio previste e già finanziate devono essere realizzate quanto prima. Sentiamo. Sindaco, la comunità di La Tisana sente il pericolo, la paura che possa succedere ancora una volta quello che è successo 60 anni fa. Capita come uno stillicidio, infatti ogni 4-5 anni noi viviamo un pericolo molto serio, come nel 2023, una piena di quasi 10 metri che fa rivivere il dramma, la tragedia di 11 morti come avvenne il 2 settembre del 65. In tutte queste occasioni, ma non solo, quando viene diramata un'allerta, come ad esempio quella gialla di oggi, le persone vengono in municipio a sincerarsi e il più delle volte anche a ricordare questo dramma. Quindi siamo in un clima di esasperazione che oggi il 60° dalla prima alluvione viene vissuto, viene tramandato una sensazione di rischio che oggi poter essere definitivamente e finalmente superato. Esistono due soluzioni che possono salvaguardare la naturalità del fiume e al contempo dare sicurezza alla parte bassa del fiume stesso. Su questo esistono due finanziamenti, uno ministeriale da 30 milioni, uno regionale da 2 milioni. Esiste anche un dialogo che è stato avviato, quindi noi riteniamo che tra il 25 e il 26 si possa arrivare alla soluzione finalmente del problema. Ricordiamo che peraltro tutte le soluzioni allo stato al vaglio prevedono non una trattenuta ma un rallentamento di una parte del flusso dell'acqua nell'alveo del fiume. Questo è importante per capire che non vengono costruiti nella parte alta bacini, come si sentiva dire, la diga di Pinzano, sono tutte ipotesi tramontate da decenni. La Tisana, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sarà in vigore fino alla mezzanotte l'allerta meteo in regione diramata dalla Protezione Civile. È una giornata di pioggia intensa. Le prime piogge sono arrivate intorno alla mezzanotte dalla fascia occidentale della regione per poi estendersi progressivamente verso est. Nella notte le precipitazioni più consistenti hanno colpito la zona montana e l'alta pianura, in particolare le prealpi e la pedemontana pordenonese, dove i temporali hanno lasciato accumuli superiori ai 30 mm. Alle 3 un'intensa cella temporalesca ha investito la bassa pianura pordenonese. Intorno alle 6:30 il fronte è arrivato a Trieste, accompagnato da raffiche di vento fino a 60 km orari e piogge intense. Al numero unico 112 sono arrivate numerose segnalazioni, allagamenti localizzati nei comuni di Fiumicello, Villa Vicentina, Sacile, Porcia, Cordenonse e Pordenone, soprattutto nella parte più occidentale della regione. Segnalata anche la caduta di alberi e rami ad Attimis, Chions e Sesto al Reghena. Sono le 12.35, continuiamo con la pagina del meteo, cielo coperto e rovesci appunto su tutta la regione, vediamo le temperature registrate alle ore 11, Trieste 19,5 gradi, mare quasi calmo, con temperatura di 25,5 gradi, Pordenone 21 gradi, Udine 20, Gorizia 19, Tolmezzo 18 gradi, Tarvisio 16, Piancavallo e Forni di Sopra 14, Sappada 13, Montezoncolan 14, Montelussari 11 gradi, tornando sulla costa, Grado e Lignano 20 gradi, di temperatura del mare rispettivamente di 25,5 gradi. Queste le previsioni per oggi pomeriggio, cielo nuvoloso con rovesci e temporali alternati a fasi di tempo migliore. Qualche temporale potrà essere forte con piogge localmente intense o molto intense nel caso di stazionarietà dei fenomeni. Soffierà vento moderato da sud con raffiche anche sostenute sulla costa e in quota. Per domani cielo variabile con maggiori schiarite verso la costa. Sulle Prealpi Giulie sarà possibile qualche debole pioggia sparsa. Torniamo ad occuparci del traffico in autostrada, proseguono i disagi dovuti alla chiusura della superstrada slovena H4, ora 4 km di coda a causa del traffico intenso si registrano in questo momento tra Duino e la barriera Trieste-Lisert, in territorio sloveno sono 6 circa i chilometri di coda tra Sesana e il Valico di Fernetti in direzione Italia, ma una buona notizia c'è, sono partiti i lavori di asfaltatura a Fernetti che permetteranno di raddoppiare la corsia. A Fernetti sono iniziati i lavori di riasfaltatura del piazzale alle spalle del confine di Stato e della sottostante Bretella. L'intervento raddoppierà da una a due le corsie destinate ai controlli di polizia di frontiera, separando il traffico leggero da quello pesante. Il cantiere, su incarico della regione, è coordinato da Autostrade Alto Adriatico ed è gestito da Adriastrade. Dovrebbe durare tra i 15 e i 20 giorni, condizioni meteo permettendo